con l'editore Marcello Baraghini di Strade Bianche per parlare della 17ª edizione del Festival Internazionale di Letteratura Resistente a Pitigliano, provincia di Grosseto, 8 e 9 settembre. Marcello, ben ritrovato. Grazie, grazie di nuovo dell'ospitalità così rara di questi anni. Raccontaci tutto. Dunque, sabato e domenica prossimi il festival si apre all'insegna di una frase che ripeteva spesso un vecchio compagno, animatore culturale, ucciso un po' dalla malattia, un po' dal disdoro, dal veleno che anche in una piccola comunità scorre a fiumi. E il problema è culturale. Credo la spiegazione di quello che sta succedendo deriva anche dalla caduta della cosiddetta cultura, letteratura, poesia, eccetera. E quindi recuperiamo, il pensiero forte che deriva dalla letteratura, dalla saggistica, dalla poesia. E per testimoniarlo ci sarà una, intera mattina dedicata a Tiziano Tessani, al suo lavoro di giornalista critico, di scrittore, di fotografo, che ha saputo raccontare dalla guerra Vietnam, dalla guerra vietnamita, dalla guerra americana fino all'apartheid in Sudafrica, per non parlare dell'India e della Russia post-comunista, a lui un'intera mattina e quattro piccoli libri cosiddetti Bianciardini, in onore di Luciano Bianciardi, che costano un centesimo ognuno e che riprendono alcune pagine fondamentali scelte dalla moglie della Fondazione Tiziano Terzani relative alle aree calde dove lui visse e raccontò in libri e articoli e fotografie. Dopodiché, tutto il pomeriggio di sabato 8, la letteratura senza finzioni, a partire dai racconti pubblicati in libro, in volume, dalle strade bianche di stampa alternativa, i vincitori del primo premio Stregone, letteratura senza finzioni e senza inciuci. Quindi tre racconti vincitori che richiamano la memoria viva del popolo, quindi di coloro che lasciarono l'Italia per cercare fortuna dalla miseria, per evincersi dalla miseria, per scappare dalla miseria italiana e approdarono in America ai primi del Novecento, fino a esperienze di sfruttamento da parte di ragazzi africani nelle campagne della Toscana, e fino alla sera con un nuovo reading di un giovanissimo poeta anticonformista di grandissimo valore la serata del sabato. Domenica 9, bambini in piazza principale gratuitamente con un performer di grandissima qualità, Felice Quantone, tanto per dare una sventagliata della qualità, della passione. E quasi mi veniva una frase del vecchio scrittore anarchico Adun: le barricate culturali chiudono le strade ma aprono il cammino. Sì. Dopo il problema culturale vorrei chiudere chiosando questo grande Jorge Enrique Adun. Sì. Marcello, facciamo anche un bilancio di questo festival, visto che è arrivato alla 17ª edizione. Ma un festival, citavo appunto, è un festival di barricate editoriali, barricate culturali, barricate letterarie, in controtendenza rispetto ad un regime che ormai asfalta tutto, a partire dal premio più prestigioso, lo Strega, tutto inciuci, tutto corridoi, tutto obbligo di bere questo schifoso liquore, fino a qualsiasi giornale, televisione, salotto, radio. Ormai in Italia io ritengo, e quindi rispondiamo con le nostre barricate, c'è un editore unico che è un delinquente naturale e si chiama Berlusconi. C'è un giornale unico che, se non si chiama Berlusconi, ci manca poco. C'è una radio unica, sempre del delinquente naturale. Ecco, in questo scenario esiste invece un paese reale che vuole ancora capire, lottare, resistere, e noi crediamo di rappresentarlo ogni volta di più anche grazie a questo festival e grazie al lancio dell'idea che il prezzo dei nostri libri, delle strade bianche di stampa alternativa, lo fanno i lettori, non a partire da collana che ospita pagine di Tiziano Terzani, che si chiama I Bianciardini, che costa un centesimo, fino alle altre due collane, i 1.000 lire per sempre, e Sconfinati, dove noi proporremmo che, proponendo qualità e prezzo contenuto all'eccesso, che è quello tipografico, il prezzo di copertina, che il prezzo lo faranno i lettori, depositeranno in un contenitore trasparente i loro segnali di complicità, e quindi si ricomincia delle macerie totali ormai, totali, che ha creato la cultura di regime, l'editoria di regime, la distribuzione di regime, la critica di regime, per ripartire da queste macerie e rinascere e resistere di nuovo, lottare di nuovo e creare alternativa e qualità di vita e qualità umana che oggi manca completamente. Marcello, i riferimenti web sono la pagina Facebook e il sito internet di Strade Bianche, giusto? Ora, cominciamo a dare il telefono al quale tu mi hai chiamato, che è 0564 61 5317. Il sito è stradebianchelibri.com, la mail è stradebianchelibri@gmail.com. Aggiungo in chiosa finale: il festival è gratuito, come è sempre stato nei 17 anni della sua vita, e rigorosamente, a differenza di altre kermesse, saloni, festival, senza sponsor. Bene, ricordiamo la 17ª edizione del Festival Internazionale di Letteratura Resistente a Pitigliano, provincia di Grosseto, 8 e 9 settembre. Un ringraziamento e un saluto all'editore Marcello Baraghini di Strade Che Bianche. resistete così tanto e così bene. Ciao Marcello, ci vediamo lì. Ciao.